Signor Presidente, sono un ragazzino che a scuola tanto freddo basterebbe anche un cerino. Signor Presidente, faccio il centravanti, ma sono un italiano e posti non ce ne sono tanti. Signor Presidente, sono laureato, volevo fare il medico, ma sono disoccupato. Signor Presidente, sono un operaio, se mi va bene pago la prigione e il macellaio. Signor Presidente, sono pensionato, chissà se riesco a prendere i soldi che ho dato. Signor Presidente, va peggio di prima, avevo mille sogni, mi è rimasta la schedina. Signor Presidente, se vuoi in paradiso, mi basterebbe un sigaro e una ciotola di riso. Signor Presidente, se vuoi giù all'inferno, speriamo non ci siano tasse e non ci sia governo. Signor Presidente, mi sono reincarnato, mannaggia la puttana a me che ci sono ritornato. Voce d'aguda, la coda fa così. Nano Ambrosiano, bum bum bum. Nano Ambrosiano, thank you.